Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Caso Ruby, arriverà domani la richiesta di giudizio immediato per Silvio Berlusconi. Petroliera italiana in mano dei pirati somali, l'equipaggio sta bene. Agguato in strada a Camaiore, è ucciso un imprenditore. È morto a 87 anni Cesare Rubini, doppio campione di pallanuoto e basket. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. La Procura di Milano domani inoltrerà la richiesta di giudizio immediato per Silvio Berlusconi, indagato per la vicenda Ruby. Lo ha detto questa mattina il procuratore di Milano, ma sentiamo per tutti i dettagli in diretta Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì, la richiesta sarà inoltrata domani, un'ultima riunione per concordare l'iter, poi il carrello con gli atti dell'inchiesta Ruby salirà dal quarto al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. È lo stesso procuratore Edmondo Bruti Liberati a confermare i tempi della richiesta di rito immediato per il Premier, mentre è nel vertice di questa sera che i PM stabiliranno se chiedere il giudizio subito sia per la prostituzione minorile o solo per la concussione, nodo giuridico sollevato da una sentenza della Cassazione. Non è cambiato invece il capo di imputazione per Silvio Berlusconi rispetto alle minorenni, vale a dire gli accertamenti fatti sulla presenza d'Arcore della brasiliana Iris Berardi non si sono tradotti in nuove contestazioni, che restano dunque al momento limitate alla vicenda Ruby. Ruby, che secondo le tesi difensive poggiate su una dichiarazione della stessa ragazza, sarebbe nata nel 91 e non nel 92, quindi già maggiorenne durante le feste di Arcore. Invieremo verbali e memoria al GIP, chiude il procuratore. A quel punto il giudice Cristina Di Censo avrà 5 giorni per stabilire se ci sia effettivamente quell'evidenza della prova necessaria per il rito immediato e quindi o decidere l'inizio del processo saltando l'udienza preliminare oppure chiedere nuove indagini ai PM, che a quel punto potrebbero accorpare la posizione del Premier a quella degli altri indagati. Ed è tutto. Bene, grazie Raffaella. Adesso andiamo a Roma, dove non c'è solo il caso Ruby a far discutere. Sul tavolo c'è sempre il nodo federalismo, alla vigilia di un Consiglio dei Ministri che potrebbe e dovrebbe varare una serie di misure per tentare una difficile uscita dalla crisi economica. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno. Federalismo in cambio del processo breve, sarebbe questo il patto venuto fuori dalla cena di Bossi e Berlusconi ad Arcore. La Lega garantirà il passaggio al procedimento blocca processi, il PDL farà passare 5 decreti preparati dal ministro Calderoli. Ma dal Popolo della Libertà negano l'accelerazione e lo scambio. Sentiamo Fabrizio Cecchitto. Ricordo che il processo breve è stato già approvato al Senato, e fermo in commissione da parecchio tempo. È una delle questioni che noi abbiamo davanti, perché ogni giorno ci abbiamo, diciamo così, delle condanne dall'Europa perché le nostre sentenze vanno oltre dei tempi normali. Ricordo anche che intendiamo per processo breve dei tempi che sono di 6 anni, 7 anni e mezzo e 10 anni, quindi breve rispetto alla lungaggine attuale, ma non certamente breve in termini oggettivi e assoluti. L'opposizione però è sul piede di guerra. Orlando, del Partito Democratico. Ci auguriamo di no, non è una priorità, è uno scempio, e se questo avvenisse vorrebbe dire che la Lega scambia un federalismo taroccato con una amnistia camuffata che impedirà di processare molti imputati e tra gli altri casualmente il Presidente del Consiglio. Quando dico molti parlo di migliaia e migliaia. Attesa poi per il Consiglio dei Ministri di domani, che dovrebbe rilanciare l'economia. Ci sono allo studio sgravi per le imprese e poi investimenti per le infrastrutture al sud, come l'alta velocità e l'allargamento della Salerno-Reggio Calabria. Ma poi c'è una nuova polemica. Roberto Calderoli della Lega si schiera contro la festività del 17 marzo per l'Unità Nazionale. Festività, ricordiamo, programmata solo per quest'anno, ma il ministro del Carroccio parla di uno spreco enorme, di perdita di risorse, e propone di festeggiare lavorando. Per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E proprio su questo tema, cioè sulla festa del 17 marzo, una dichiarazione di poco fa rilanciata dalle agenzie di Emma Marcegaglia, il numero uno degli industriali, dice: i festeggiamenti sono essenziali, ma in un momento come questo un onere di 4 miliardi di euro per le imprese forse non è la cosa migliore per la loro crescita. E come dicevamo, domani c'è questo Consiglio dei Ministri che dovrebbe sbloccare alcune novità in campo economico. Sentiamo il servizio. Lo dicono i sondaggi e lo stanno confermando timidamente le aziende. I segnali di ripresa si cominciano a sentire. L'onda buona la segnalano i veneti di Confindustria Padova e Fondazione Nord-Est. La vedetta d'Italia, dunque, ricomincia a guardare avanti. Riprendono a esportare all'estero quasi la metà delle imprese padovane, che chiuderanno con bilancio positivo il 2010. Boccate d'ossigeno che corrispondono a ripresa di forze. Ora gli imprenditori chiedono concretezza al governo. Domani al Consiglio dei Ministri verrà presentato dunque un piano per la crescita, ma sarà a tappe. Si parte dalle misure antifrode per l'IVA e voucher per gli investimenti delle piccole e medie imprese. Slitta alla prossima il piano Sud, anche se domani si esaminerà per il mezzogiorno una prima tranche di fondi da riservare a crediti di imposta e infrastrutture. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come abbiamo detto, sarà un piano di crescita a tappe e toccherà aspettare ancora per le novità del piano Sud, il piano casa e la riforma dei servizi pubblici locali. In particolare c'è molta discussione attorno al piano casa. Quello del 2009 non servì a rilanciare l'economia. Il vero volano sono stati invece gli ecoincentivi del 55%, cioè gli sgravi del 55% sul risparmio energetico, con un giro d'affari stimato di 11,1 miliardi di euro e 843.000 interventi. È uno dei settori più in crescita, come conferma Paolo Corona, bioarchitetto intervistato da Cristina Carpinelli. Secondo me, diciamo, da quel punto di vista lì, il piano casa è stato un po' un flop, cioè sinceramente gli interventi sono stati, si contano, insomma. Invece era molto più importante, secondo me, il discorso della detrazione del 55%, ha avuto molto più successo, numerosissime richieste. Adesso cambiamo argomento. Una petroliera italiana dell'armatore Fratelli D'Amato di Napoli è stata attaccata all'alba da un gruppo di pirati mentre era in navigazione nell'Oceano Indiano. La nave, attaccata con mitra e razzi RPG, è in mano dei pirati e ora si attende l'eventuale richiesta di riscatto. Non ci sarebbe nessun ferito fra i 5 italiani e i 17 indiani dell'equipaggio della petroliera Savina Sealing, sequestrata questa mattina dai pirati nell'Oceano Indiano. La petroliera di circa 266 metri dell'armatore Fratelli D'Amato è stata attaccata a circa 900 miglia dalla Somalia e 500 dall'India. Nella stessa zona, già sabato scorso c'era stato un tentativo di assalto a un'altra petroliera sventato con manovre evasive. I 5 pirati a bordo sono armati di mitra e lanciarazzi. Capitano di vascello della Capitaneria di Porto, Vittorio Alessandro. Le ultime notizie sono quelle della nave che sembra essersi fermata. Non ci sembra che ci siano pericoli in questo momento. La nostra centrale operativa è in contatto con i sistemi satellitari e sta verificando anche gli esiti di questa azione di pirateria. C'è una nave della Marina Italiana che ha immediatamente fatto rotta verso la zona dell'attacco e che però non arriverà molto velocemente. Impiegherà infatti circa 2 giorni la fregata Zeffiro per percorrere i circa 800 chilometri che la separano dalla petroliera sequestrata. Vanessa Quinto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un giovane è morto dopo essere precipitato questa mattina dal Duomo di Milano. L'uomo avrebbe scavalcato diversi parapetti, visto che il percorso destinato ai visitatori del tetto del Duomo è particolarmente protetto. È morto poco dopo il suo arrivo in ospedale l'imprenditore vittima di un agguato questa mattina davanti alla sua abitazione a Camaiore in provincia di Lucca. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, l'uomo era indagato per le frane di Mirteto. Un agguato in piena regola, 10 colpi di pistola sotto casa sparati da un killer con il volto coperto. La vittima è Stefano Romanini, 46 anni, titolare di una ditta di escavazioni, freddato questa mattina poco prima delle 7 mentre stava per salire in macchina, appena uscito di casa nella centralissima via Battisti a Camaiore. Trasportato in fin di vita all'ospedale Versilia, l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo. Il killer nel frattempo si è allontanato di corsa a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma tengono in considerazione alcuni episodi avvenuti prima di Natale. Danneggiamenti all'auto dell'imprenditore, forse legati ai risvolti dell'inchiesta per cui Romanini era stato raggiunto da un avviso di garanzia. L'inchiesta sulle frane che nei mesi scorsi a Mirteto, provincia di Massa, hanno causato 3 vittime. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo a Napoli per parlare di importanti arresti. I 4 figli di Dante Passarelli, imprenditore ritenuto organico al clan dei Casalesi, soprannominato il re dello zucchero e morto in circostanze misteriose una decina di anni fa, la moglie di uno di loro e un factotum della famiglia, sono stati arrestati dai carabinieri nel casertano per riciclaggio di beni per agevolare il clan. Alla famiglia Passarelli nel 2010 erano già stati sequestrati beni per 1 miliardo di euro. Le indagini coordinate dalla DDA partenopea già nel luglio scorso avevano portato al sequestro di beni per circa 1 miliardo di euro. Gli investigatori hanno dimostrato come gli indagati abbiano reimpiegato in modo diretto o indiretto i beni di provenienza illecita, facendoli confluire in società apparentemente estranee sia alle dinamiche del clan di appartenenza che alle capacità economiche della famiglia stessa. Dante Passarelli aveva costruito un vero e proprio impero finanziario, come ricorda il procuratore aggiunto della DDA di Napoli, Federico Caffiero De Rao. Dante Passarelli era il riferimento economico-finanziario del clan dei Casalesi, la persona attraverso la quale il clan effettuava investimenti anche immobiliari. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E nel capoluogo partenopeo tocca quota 2.000 tonnellate la quantità di rifiuti ancora in strada, anche se le operazioni di conferimento negli impianti stanno procedendo con regolarità. Interventi straordinari di raccolta sono stati effettuati nelle zone di Chiaia e San Ferdinando in occasione della conferenza euroafricana dedicata ai temi dell'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, il traffico di droga e il terrorismo. E proprio a questa conferenza il capo della polizia Antonio Manganelli ha detto questa mattina che le forze dell'ordine italiane stanno attuando una speciale vigilanza sugli sbarchi di immigrati per prevenire l'arrivo di terroristi dall'Egitto. Di Egitto parleremo tra poco, dopo, nella seconda parte del giornale radio. Concludiamo questa prima parte con una notizia piuttosto importante che viene rilanciata dall'agenzia Radiocor, una notizia che di fatto poi riguarda anche il mercato finanziario e molti risparmiatori. Giovedì ci sarà uno sciopero in Consob, il primo da molti anni, a poco più di un mese dall'insediamento del presidente Giuseppe Vegas. La decisione è stata approvata a grande maggioranza da un'assemblea generale ieri. L'iniziativa è promossa dai sindacati Fisac, CGL, Uilca e Falbi, contrari alla FIBA CISL, tra gli altri sindacati di maggiore rappresentanza. Fare scattare la molla della protesta, spiega un sindacalista, e l'acquiescenza del presidente Vegas alla politica e contrari anche ai sindacati a un emendamento alle mille proroghe che mira a riorganizzare la commissione, che invece, aggiunge il sindacalista, ha un'indipendenza funzionale e organizzativa. Quindi ai sindacati non va bene questa vicinanza con la politica. 13, 17 minuti, 30 secondi, seconda parte di GR24. Come annunciato, ci spostiamo in Egitto, dove continua la protesta in piazza. Sentiamo quali sono le ultime novità. L'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno a voi. Quali sono le novità? A Piazza Tahrir c'è ancora una grande folla, sì. Quindi la protesta continua, imperterriti in piazza anche oggi, ma sul fronte politico mi pare che ci siano poche novità. Ma forse la novità più grossa è questa di Mubarak, che ha deciso oggi di insediare una commissione per gli emendamenti costituzionali. E, insomma, una commissione che dovrebbe completare i lavori entro febbraio e poi riferire direttamente al presidente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Mubarak è ancora al potere, ci resta, e che in qualche modo sta ancora determinando la politica di questo paese. Tutto contrario, insomma, di quello che vogliono i dimostranti a Piazza Tahrir, che oggi sono arrivati a decine e decine di migliaia, forse supereranno sicuramente le 100, le 200.000 persone, portano bandiere nazionali, urlano slogan e affollano questa che è ormai diventata, questa piazza, una sorta di Repubblica indipendente. Una Repubblica indipendente che chiede che Mubarak se ne vada, ma Mubarak non molla, resta lì. E questo in qualche modo è vero, la vera impasse della situazione, e probabilmente forse anche la via di uscita non sarà quella che chiedono i manifestanti. Grazie ad Alberto Negri, buon lavoro. Adesso noi cambiamo argomento, torniamo in Italia. A Milano è morto Cesare Rubini, forse molti di voi non lo conoscono, classe 1923, è stato però il più versatile dei campioni italiani, campione sia di pallacanestro e di basket. Un oro e un bronzo olimpici nella pallanuoto, una leggenda della pallacanestro, un amore infinito per lo sport che ne aveva fatto l'unico atleta al mondo ad essere inserito nelle Hall of Fame di due diverse discipline. Per Cesare Rubini le passioni per pallanuoto e basket erano nate quasi in contemporanea, nella sua Trieste, fra le due guerre. A vincere all'inizio è l'attrazione fatale per la piscina. E nel 1948 a Londra, nelle Olimpiadi che segnano la rinascita dopo il secondo conflitto mondiale, Rubini è in vasca nel sette bello oro olimpico, e di cui sarà poi capitano nella spedizione di bronzo a Helsinki nel 1952. Ma negli stessi anni è anche profeta del basket con l'Olimpia Milano e la Nazionale. Anche sul parquet arrivano scudetti e vittorie. Dal 1957 si dedica alla sola carriera di allenatore, portando l'Olimpia alla Coppa Campioni del 1966. In campo quel Sandro Gamba che, da allenatore degli Azzurri con Rubini dirigente, porterà il basket italiano all'argento olimpico di Mosca nel 1980 e all'oro europeo di Nantes nell'83. Elegante e competente, Rubini era soprannominato il principe. Negli ultimi anni la malattia ne aveva offuscato la memoria, che ritornava però lucida e viva ogni volta che il ricordo illuminava le piscine e le palestre in cui Rubini aveva costruito il suo mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alcuni di voi avranno sorriso perché abbiamo detto pallacanestro e basket, in realtà avete capito anche dal servizio pallanuoto e basket. Cambiamo argomento, si celebra oggi il Safer Internet Day, la giornata istituita dalla Commissione Europea per un uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie, internet in particolare. In Italia tra i capofila delle iniziative c'è Save the Children, che ha presentato una ricerca sull'uso che i minori fanno di internet. Cristiana De Paoli è responsabile unità minori e nuovi media di Save the Children. Innanzitutto questa è una ricerca che in qualche modo si è focalizzata su uno degli aspetti forse più sensibili legati all'utilizzo dei nuovi media da parte dei ragazzi, ossia la sessualità, e ha voluto in qualche modo analizzare uno dei fenomeni forse più emergenti, che è quello del sexting, ossia del produrre delle immagini di se stessi altamente sessualizzate e poi diffonderle attraverso i canali offerti o dai cellulari o da internet. Quasi il 70% dei giovani under 18 utilizza, naviga in internet, e forse quello che dovrebbe far più pensare è che quasi il 76% passa più di 2 ore al giorno collegato. Detto questo, va da sé che la sessualità è estremamente importante, un aspetto estremamente importante per l'età dei ragazzi di cui stiamo parlando, non debba in qualche modo venire sperimentata, esplorata e vissuta anche attraverso questi strumenti. La ricerca ha voluto, come ho detto prima, focalizzarsi su un fenomeno in particolare, quindi abbiamo visto come l'inviare o il ricevere messaggi con esplicito riferimento al sesso, anche messaggi e immagini personali, in qualche modo sia piuttosto diffusa. Circa un giovane su 3 riceve o invia messaggi di questo tipo. Dati di sfondo ci parlano anche di come i ragazzi in qualche modo vivano esperienze anche estremamente importanti online, anche estremamente intime. Quasi il 17% dice di avere avuto rapporti intimi con persone conosciute in rete. Lei prima diceva che molti giovani passano addirittura 2 ore online, verrebbe da dire che quindi uno dei primi consigli è quello: cari genitori, cercate, anche obbligando i vostri ragazzi, a rimanere meno tempo collegati ad internet. In generale, quali altri consigli voi date ai genitori per cercare di limitare certe derive che l'utilizzo della rete può portare? Il primo suggerimento che mi sento di dare è essere sicuri che ci sia un giusto equilibrio fra il tempo passato davanti allo schermo, per intenderci, e il tempo passato nella vita reale, dove in realtà si acquisiscono le competenze che insegnano in qualche modo a vivere, quindi evitare il rischio che la rete assuma un ruolo sostitutivo nella vita dei ragazzi anziché integrativo nella loro vita. Secondo, essere sicuri che comunque quando utilizzano questi strumenti siano equipaggiati, ossia in qualche modo abbiano le competenze per poter gestire le relazioni e anche i contenuti che incontrano, ad esempio online. Terzo, e qui faccio direttamente riferimento alla ricerca e quindi al tema delle ricerche, quindi alla sessualità, la prevenzione più importante sta nella capacità degli adulti di parlare, soprattutto ascoltare, rispondere alle domande di natura sessuale poste dai loro figli, in modo che non vadano a cercare altrove, soprattutto in rete, le risposte di cui hanno bisogno. Parliamo di Milano, che ha esaurito il bonus annuo dei 35 giorni fuori legge per l'inquinamento dopo appena 38 giorni dall'inizio del 2011. Per il capoluogo lombardo suona ora la procedura, l'ora della procedura di infrazione comunitaria, poiché le centraline dell'ARPA hanno registrato ieri valori record, 181 microgrammi al metro cubo di PM10 contro i 50 tetto massimo concesso. Il vice sindaco De Corato sollecita interventi anche nei comuni dell'Inter. Lo ha intervistato Roberta Pellegata. Milano ha fatto quello che nessuna città della Valle Padana ha fatto in questi giorni. Tutte le altre città hanno superato, come Milano, ampiamente i giorni di sforamento del PM10. È evidente che noi da soli non possiamo continuare se non c'è una concertazione di interventi di almeno di tutta l'area conurbata a Milano. Se ci sarà questa decisione, bene, se no da giovedì noi sospenderemo i nostri interventi, perché è inutile che Milano continui a fare da sola qualcosa che evidentemente gli altri comuni, pur avendo le centraline e pur sforando le centraline da almeno 30 giorni, nessuno dei sindaci si è sentito in dovere di prendere qualche iniziativa. È a quasi un anno dal disastro ambientale del fiume Lambro, ci sono due indagati. Nessun incidente, ma la volontà di nascondere un reato fiscale. Dopo quasi un anno delinea uno scenario del tutto nuovo l'inchiesta sui veleni nel Lambro. Quasi un anno fa, era la notte tra il 23 e il 24 febbraio, nel fiume finirono 2.600 tonnellate di idrocarburi. Provenivano dalla Lombarda Petroli. Dal Lambro finirono nel Po e poi in mare, con enormi danni per l'ecosistema. Allora si parlò di guasto o di sabotaggio. Ora i PM di Monza hanno iscritto nel registro degli indagati due persone, Giuseppe e Rinaldo Tagliabue, gli stessi proprietari della società. Secondo quanto ricostruito dai magistrati, nel deposito sul Lambro erano stoccate centinaia di tonnellate di greggio, molte più di quanto non comparisse nei libri contabili, oltre che nelle tasse versate. Nel febbraio dell'anno scorso stavano per scattare controlli dell'Agenzia delle Dogane, che avrebbero potuto comportare milioni di euro di multe e conseguenze penali. Così, secondo l'accusa, avrebbero deciso quantomeno di favorire lo sversamento nel fiume, forse servendosi direttamente di qualche operaio. Ora, oltre al sospetto di evasione fiscale, su di loro pesa l'accusa di reato ambientale. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini. Ringrazio in regia Filippo Aureggi. Sono le 13:27 minuti. La prossima edizione di GR24 in onda alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.